giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Manovra d'autunno, 337 milioni di risorse aggiuntive, 100 milioni in più per i danni del maltempo, 60 per la sanità. Non ha chiuso il centro per minori non accompagnati di via 23 marzo a Udine, proteste dei residenti. Disagio mentale tra migranti e senza tetto, fenomeno difficile da intercettare, il caso dell'uomo morto a Trieste. Perquisizioni e interrogatori dei carabinieri dopo la rissa nella comunità Sikh di Pasiano, 22 indagati. A Porto Rose il via ufficiale al progetto transfrontaliero della Valle dell'Idrogeno, dall'Europa 25 milioni a fondo perduto. Arrivano in regione i nuovi vaccini anti-Covid, la campagna di profilassi partirà insieme a quella contro l'influenza. Cambio di deleghe nella giunta di Trieste, lo sport da Rossi a Lodi, sullo sfondo la Carel sul campo dello stadio Rocco. Università di Trieste al top per finanziamenti PRIN in campo biomedico, oncologico e cardiologico e nei computer ad alte prestazioni. Stasera l'Udinese in trasferta a Napoli, non pensare alla brutta sconfitta con la Fiorentina, ha detto ieri l'allenatore Sottil. 7:19 minuti di mercoledì 27 settembre, buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 22 gradi, vento da est-nord-est, bora a 32 km orari, mare mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia 19 gradi, a Udine e Pordenone 18 gradi, a Tolmezzo, Tarvisio e Forni di Sopra 10 gradi, sul Biancavallo 8 gradi, a Sappada 7 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolano 8 gradi e mezzo, sul Lussari 7 gradi e 5 decimi, Grado 20 gradi e mezzo, Lignano 19 e 5 decimi, temperatura del mare nelle due località 22 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna, bel tempo con cielo sereno e temperature massime estive, soffierà bora moderata su costa e zone orientali, più sostenuta a Trieste. Nel Tarvisiano possibili nubi basse o nebbie di primo mattino. È stata approvata dalla Giunta regionale la manovra autunnale di assestamento di bilancio, che comprende anche nuovi fondi per far fronte ai danni causati dal maltempo. Il disegno di legge approderà in consiglio a fine ottobre. 337 milioni di risorse aggiuntive è il valore della manovra autunnale di assestamento di bilancio, risorse che arrivano dal maggior gettito. Per l'assessora alle finanze Zilli, un segnale positivo. L'economia regionale continua a tenere nel 2023, questo ci permette di mettere a disposizione 337 milioni di euro come risultato di maggiori entrate per l'assestamento autunnale. La voce principale di risposta sarà l'emergenza maltempo, con 100 milioni di euro al fondo di dotazione della protezione civile. I 100 milioni si aggiungono ai 50 già stanziati per riparare i danni da vento e grandine. Altre risorse, 65 milioni per le imprese, 70 all'agricoltura, consentiranno ai fondi di rotazione di far fronte anche all'aumento dei tassi di interesse. Ulteriori 60 milioni andranno alla sanità. A fine ottobre il passaggio in consiglio regionale per l'approvazione. In aula anche la mozione della consigliera Capozzi, Movimento 5 Stelle, sul decreto legge che affida al governo il potere di nomina di un commissario straordinario per realizzare grandi investimenti esteri del valore non inferiore al miliardo di euro, dichiarati di preminente interesse strategico nazionale. La norma qui rinfocola i timori sul progetto di Danieli e Metinvest di un'acciaieria nella Ussacorno. La mozione, bocciata, chiedeva l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale per violazione delle prerogative statutarie di autonomia. La risposta dell'assessore Roberti: al momento il decreto legge potrebbe decadere e potrebbe essere modificato. Se ce ne sarà motivo, la Giunta saprà difendere la specialità del Friuli Venezia Giulia. Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo di migranti, la vicenda della cooperativa Aedis che a Udine ancora ospita nella struttura di via 23 marzo 19 minori non accompagnati, malgrado si fosse impegnata a lasciare i locali entro lunedì sera, sarà affrontata nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato in tarda mattinata dal prefetto Massimo Marchesiello. Sinora sono stati trasferiti solo i ragazzi affidati dal comune di Udine, mentre nella comunità rimangono quelli provenienti da altri comuni, anche di fuori regione. La cooperativa aveva ammesso la difficoltà di gestire il gruppo a causa della presenza di alcuni ragazzi particolarmente indisciplinati e con alle spalle varie denunce. In mattinata ieri le proteste dei residenti della zona, che non hanno esitato a mandare mail al prefetto di Udine. A mezzogiorno il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore Stefano Gasparin hanno convocato sul caso una conferenza stampa. Non potendo risolvere a questo punto in maniera consensuale il rapporto con la cooperativa, ci troviamo costretti ad agire in maniera diversa e stiamo valutando le modalità per arrivare alla chiusura definitiva, a questo punto non consensuale, della struttura. Il governatore Massimiliano Fedriga con l'assessore a sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti illustreranno questa mattina nella sede della Regione a Trieste le ultime delibere approvate dalla Giunta e i relativi regolamenti in tema di immigrazione, fra i quali gli atti che disciplinano la concessione di contributi a supporto della gestione del fenomeno migratorio, per la prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta, fino al regolamento in materia di parità dei diritti fra donne e uomini all'interno delle comunità straniere. La Procura di Trieste, che indaga sulla morte dell'iraniano di 55 anni senza fissa dimora, trovato impiccato a un guardrail, è sempre più indirizzata verso l'ipotesi del suicidio. L'uomo, si è saputo, soffriva di una sindrome ansiosa depressiva. Quello della salute mentale dei migranti e senza tetto è un problema in forte crescita. Salvo nuovi elementi che potrebbero arrivare ad esempio dall'autopsia o dalle registrazioni delle telecamere, il ritrovamento del cadavere sotto la grande viabilità di domenica sarà considerato suicidio. I documenti nelle tasche del senza tetto portano all'Iran, luogo d'origine del 55enne, e al Belgio, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno. Nessun precedente penale di polizia in Italia, poche le tracce lasciate a Trieste, un controllo di routine dei carabinieri a luglio e la denuncia di smarrimento della carta d'identità. Cosa lo abbia portato in città non si sa. È certa però la recente diagnosi dei medici volontari dell'associazione DONC di sindrome ansiosa depressiva. Gli avevano prescritto una visita psichiatrica. Un problema reale, quello della salute mentale di migranti e senza tetto. Paola Zanus Michiè, psichiatra di Asugi. È un argomento attuale, presente, non ha nessuna caratteristica emergenziale, nel senso che non stiamo parlando di numeri inaffrontabili, ma con qualche organizzazione interna, l'equipe di lavoro, insomma, riesce a dare delle risposte che mi sembrano coerenti. È un fenomeno difficile da intercettare e diagnosticare, quello del disagio mentale, anche per ragioni culturali, spiega chi lavora sul campo. Molto spesso è nel corpo che mostrano il proprio star male, quindi con dolori che non passano, con dolori addominali, con mal di testa, quindi sono soprattutto segnali che sembrano fisici e poi alludono ad un non saper dire, anche per le difficoltà non solo linguistiche ma proprio culturale, non saper dire quali sono le reali problematiche interiori. La cura è complicata perché il migrante spesso non rimane fermo in un territorio a lungo, difficile per un medico impostare un vero e proprio percorso terapeutico. Se la continuità non è garantibile perché il percorso li porta lontano o li fa allontanare, insomma, è chiaro che è meglio usare farmaci sintomatici proprio per aiutare il sonno, ad esempio, per aiutare la salute, e non impostare terapie farmacologiche più specifiche. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 22 persone indagate a seguito della maxi rissa avvenuta a inizio della scorsa settimana nella comunità SIC di Pasiano di Pordenone. Le indagini coordinate dalla procura hanno coinvolto circa 100 carabinieri con una serie di perquisizioni. Ha impegnato un centinaio di carabinieri l'imponente operazione che nel Pordenonese ha portato a 22 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettante persone di origine indiana, tutte denunciate a piede libero per rissa aggravata in seguito alle violenze scoppiate la sera del 18 settembre a Villanova di Prata di Pordenone. Un episodio che aveva coinvolto una cinquantina di membri della comunità Sikh, provocando 7 feriti. Durante le perquisizioni, disposte dalla procuratrice facente funzione di Pordenone Maria Grazia Zaina, che coordina le indagini, i militari dell'arma hanno sequestrato diverse armi bianche e oggetti atti ad offendere, tra cui 2 coltelli, un tirapugni, uno sfollagente e 11 bastoni. A 8 persone sono stati anche notificati degli avvisi orali del questore di Pordenone che contengono alcune prescrizioni di comportamento. Vincenzo Nicoletti, comandante dei carabinieri di Pordenone. È stata valutata la necessità di intensificare i passaggi in determinate aree cittadine e quindi per scongiurare ulteriori iniziative violente da parte di esponenti di quella comunità. Restano ancora da chiarire motivi della rissa, in cui è rimasto ferito anche Satvinder Singh, componente del direttivo dell'associazione che gestisce il Tempio Sikh di Pasiano, che pochi giorni prima aveva anche subito un attentato incendiario alla propria auto. Un'ipotesi su cui lavorano gli investigatori è che gli episodi abbiano a che fare con le divisioni insorte negli ultimi mesi in seno all'associazione riguardo al rinnovo delle cariche sociali, tema su cui nei prossimi giorni è previsto un confronto tra le parti interessate e i loro legali in questura a Pordenone. Le indagini puntano inoltre ad appurare le possibili connessioni con quanto avvenuto a Novellara, in Emilia, dove la casa di un membro della locale comunità Sikh è stata recentemente colpita da 3 bottiglie incendiarie. Satvinder Singh, infatti, è anche il presidente dell'Unione Sikh Italia, che ha sede proprio a Novellara. Pordenone, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. La pazienza è finita. Con queste parole CGIL, CISL e UIL annunciano la manifestazione di stamattina sotto la regione, dove lavoratrici e lavoratori delle residenze sanitarie e assistenziali private incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Questa è una battaglia per la dignità di chi lavora ogni giorno per garantire cura e assistenza alle persone, di chi mette il proprio impegno e la propria professionalità a disposizione dei più fragili, di chi svolge un servizio pubblico senza che siano riconosciuti il giusto salario, i giusti diritti, le giuste condizioni di lavoro, si legge in un comunicato sindacale. Appuntamento alle 10, dunque, sotto la sede del Consiglio regionale. In arrivo in regione i primi lotti di vaccini anti-Covid per l'avvio della nuova campagna nazionale contro il virus, campagna che partirà ad ottobre in concomitanza con quella anti-influenzale. Un primo lotto di oltre 16.000 dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer, aggiornato alla nuova sottovariante dominante del virus, e circa 280.000 dosi di vaccino anti-influenzale in arrivo insieme in Friuli Venezia Giulia daranno avvio da metà ottobre alla campagna di protezione a doppio binario, con la possibilità di ricevere contemporaneamente entrambi i vaccini in un'unica seduta. Tra i primi lotti di vaccino anti-Covid ad arrivare nei 3 ospedali hub della regione, Pordenone, Udine e Cattinara di Trieste, quelli per le fasce d'età dai 12 anni in su e per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni, per i più piccoli sotto i 4 anni, arriveranno in una seconda tranche a ottobre. Per gli adulti basterà una sola dose, sia come richiamo che come primo ciclo vaccinale, così anche per i bambini già vaccinati contro il virus in passato. Al momento non è previsto l'arrivo del nuovo vaccino Spikevax di Moderna, appena autorizzato dall'AIFA, fa sapere il direttore della farmacia ospedaliera dell'area giuliana, Paolo Schincariol, componente della commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco. In questi giorni, intanto, si susseguono gli incontri tecnici tra regione, aziende sanitarie, medici di famiglia e farmacie per mettere a punto l'organizzazione della doppia campagna vaccinale. L'adesione dei medici di famiglia alle vaccinazioni anti-Covid, come per le anti-influenzali, sarà su base volontaria, rammenta il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, che conferma una recrudescenza di infezioni da Covid in tutte le fasce d'età, ma in ogni caso osserva con caratteristiche di ridotta aggressività. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. A Porto Rose il via ufficiale al progetto transfrontaliero della Valle dell'Idrogeno, che coinvolge Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia. Oltre 37 i partner in gioco, dall'Europa fondi a fondo perduto per un valore di 25 milioni di euro. Il servizio di Igor Gregori della redazione slovena. È il litorale sloveno a fare da sfondo alla 2 giorni durante la quale Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia daranno seguito al piano che, in base alla politica verde europea, vuole accelerare la diffusione delle tecnologie dell'idrogeno. Lo scopo finale è quello di produrre energia cosiddetta green da utilizzare nelle industrie ad alta intensità e nei trasporti. 17 i progetti pilota per ricavare oltre 5.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno fino al 2030. L'obiettivo è in primis la decarbonizzazione dei settori industriali, ma in seguito la soluzione energetica interesserà anche i singoli consumatori. I primi 25 milioni di euro li mette a disposizione il programma Horizon Europe, ma lo scopo è raccogliere più di 200 milioni come investimento iniziale e in seguito raggiungere i 700 milioni di euro. Le ricadute positive interessano innanzitutto il mondo produttivo, ma anche quello lavorativo, il tutto nell'ottica della cornice green che oggi, complice la crisi internazionale, persegue sempre più la necessità dell'autonomia energetica. Questo anche il leitmotiv ripetuto più volte a Porto Rose da Tomáš Tokl, direttore del holding delle centrali elettriche slovene, ma anche dai segretari di Stato sloveno e croato Tina Sersen e Ivo Milatic, oltre che dall'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Oggi appunto abbiamo annunciato il fatto che ci sarà questa progettualità, questa sperimentazione da parte di Acegas APS per l'utilizzo delle reti di distribuzione cittadine anche dell'idrogeno. E ora parliamo di Danieli. Il CDA di Danieli ha approvato il bilancio annuale della società e il bilancio consolidato di gruppo dal 1 luglio del 2022 al 30 giugno di quest'anno. L'esercizio chiude con un utile netto di oltre 243 milioni di euro, più 6%, e presenta un margine operativo lordo di quasi 424 milioni, più 18%, con una redditività interessante in rapporto al fatturato per entrambi i settori, plant making e steel making, che mostrano buoni fatturati e margini tali da garantire la totale copertura finanziaria degli investimenti fatti e delle ingenti spese di ricerca e sviluppo sostenute, ha fatto sapere con una nota il gruppo che ha sede a Butrio. Il portafoglio ordini di Danieli ammonta a 6 miliardi 200 milioni di euro rispetto ai circa 5 miliardi dell'anno scorso. Il numero dei dipendenti è aumentato di oltre 600 unità, portandolo a un totale di 9.732 persone. Cambio di deleghe all'interno della Giunta Comunale di Trieste. Il sindaco Roberto Di Piazza ha assegnato all'assessore Elisa Lodi di Fratelli d'Italia la delega alla promozione ed eventi sportivi, finora di Giorgio Rossi, della lista civica dello stesso primo cittadino. Lodi somma la nuova delega ai referati di cui era già titolare: lavori pubblici, grandi opere, demanio e patrimonio, impiantistica, scolastica e sportiva. A Rossi rimangono i sistemi museali ed eventi culturali e il turismo. Sullo sfondo della decisione, la querela sul manto erboso dello Stadio Rocco, con Rossi che aveva chiamato in causa la collega di giunta dopo che la triestina era stata costretta a giocare le gare interne a Fontana Fredda, un tema che si lega a quello dei grandi concerti in programma allo Stadio Rocco in concomitanza con la fase decisiva del campionato di Serie C. L'Università di Trieste è prima in regione per finanziamenti ministeriali PRIN. Si tratta di progetti di ricerca di base in campo biomedico, oncologico e cardiologico, ma anche nel settore dei computer ad alte prestazioni. 314 progetti presentati, di cui 148 accettati, tra questi 63 vedono capofila l'Università di Trieste, che dunque ottiene un ottimo risultato nell'assegnazione dei finanziamenti PRIN del 2022, ovvero i progetti considerati di rilevante interesse nazionale dal Ministero dell'Università e della Ricerca e che hanno come obiettivo quello di rafforzare le basi scientifiche del nostro Paese. Progetti che per complessità possono richiedere la collaborazione di più professori e ricercatori e i cui gruppi di ricerca possono essere costituiti da più unità di vari atenei. Roberto Di Lenarda, rettore dell'Ateneo Giuliano. Siamo all'interno di molti centri nazionali, alcuni di ambito biomedico, in particolare in campo oncologico e cardiologico, ma siamo all'interno dei progetti del data science e del computing ad alte prestazioni. Stiamo entrando e siamo i promotori del progetto bandiera dell'Hydrogen Valley, che è stato proprio un progetto impostato e costruito all'interno dell'Università di Trieste, ma in questo momento stanno arrivando anche i risultati di molti progetti di ricerca di dimensioni inferiore ma con grande numerosità, in particolare i progetti PRIN e i progetti PRIN PNRR, dove l'Università di Trieste è stata protagonista con tantissime proposte e una percentuale di approvazione dei progetti che è superiore, nettamente superiore alla media regionale del Triveneto. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Accompagnare gli studenti degli ultimi anni delle superiori a una scelta consapevole delle facoltà a cui iscriversi è l'obiettivo del progetto che coinvolge l'Università di Udine e i dirigenti scolastici degli istituti della città. Ha preso avvio una 3 giorni di incontro tra l'Università di Udine, i dirigenti scolastici e i referenti per l'orientamento delle scuole superiori di Udine, Pordenone e Gorizia e dei territori di riferimento. Obiettivo è progettare in maniera condivisa un percorso di accompagnamento degli studenti dell'ultimo triennio di scuola alla conoscenza del mondo universitario e alla scelta del percorso di studio, oltre a illustrare il programma di eventi di orientamento per l'anno accademico 2023-2024, un incontro aperto nella biblioteca di Ateneo a Udine dal rettore dell'Università Friulana, che ha spiegato l'importanza della progettazione per coinvolgere sempre più studenti. Presentati anche i dati relativi al 2022, che hanno visto 40 incontri con la partecipazione di 5.000 studenti, 60 talks che hanno coinvolto oltre 2.000 ragazzi. La delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi. Quest'anno la partecipazione durante l'anno scolastico verrà mediata dalla scuola, in maniera tale che ci sia anche un coordinamento della scuola, un'attenzione a chi si iscrive, a chi partecipa, a chi frequenta, ed avere tassi di partecipazione ancora maggiori, perché l'obiettivo è dare loro le opportunità per capire cosa fare, invogliarli a continuare a studiare, a crescere, a formarsi e a scegliere al meglio il loro futuro. Gli stessi incontri sono stati programmati a Pordenone e Gorizia. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E infatti l'Università di Udine incontra oggi i dirigenti scolastici e i referenti per l'orientamento delle scuole superiori di Pordenone e del territorio, l'appuntamento alle 15 nell'aula B1 del campus universitario di Pordenone. L'obiettivo è progettare in maniera condivisa un percorso di accompagnamento degli studenti dell'ultimo triennio di scuola alla conoscenza del mondo universitario e alla scelta del percorso di studi. E invece oltre 100 studenti delle scuole superiori del territorio regionale sono attesi al polo scientifico sempre all'Università di Udine in occasione del convegno I Giovani e la Chimica in Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa biennale organizzata dalla sezione regionale della Società Chimica Italiana e dalle Università di Udine e Trieste, volta a promuovere la conoscenza e l'immagine della chimica all'esterno del mondo accademico. Oltre a vari studiosi degli Atenei di Udine e di Trieste che presenteranno i risultati del proprio lavoro, all'evento interverranno i referenti di varie aziende e parteciperanno numerosi studenti del ITST JF Kennedy di Pordenone e del ISIS Arturo Malignani di Udine. Le due scuole in particolare illustreranno alcuni progetti realizzati nell'ambito della didattica della chimica. A spiegarci l'evento è Eleonora Aneggi, referente del progetto per l'Ateneo Friulano. Questa è un'iniziativa biennale che viene organizzata dalla sezione regionale della Società Chimica Italiana e dalle Università di Udine e di Trieste e che vuole proprio promuovere la conoscenza e l'immagine della chimica anche all'esterno del mondo accademico e quindi rappresenta un evento importante di condivisione proprio per potenziare l'interazione tra l'università, la scuola in particolare in questo caso, ma non solo, anche il territorio e l'industria, e serve proprio a orientare i giovani verso percorsi di studio tecnico-scientifici e quindi anche coinvolgere i ragazzi, animare la loro voglia di conoscenza rispetto a temi che sono di estrema rilevanza poi nella società moderna, dalla salute, l'ambiente, l'energia, quindi temi assolutamente all'avanguardia. Temi anche attuali, si parla anche di chimica dei materiali? Si parla anche di chimica di materiali, si parla di tante chimiche diverse, nel senso che gli oratori appartengono a formazioni diverse, ambiti disciplinari differenti, come può essere quello dei materiali, quello più delle energie, quello più biochimico, quindi molto diversificato come temi e argomenti che verranno presentati. All'università i ragazzi delle superiori arrivano con nozioni sufficienti di chimico o si potrebbe fare di più? Si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio. Diciamo che poi dipende molto anche dal background di questi ragazzi, dal tipo di scuola che hanno frequentato, quindi ce ne sono alcuni che sono più preparati rispetto ad altri, ma dipende proprio dalla scelta che è stata fatta della scuola superiore anche. Quindi quando arrivano poi al primo anno dell'università, ovviamente la loro preparazione è abbastanza variegata. e deve essere un pochino uniformata, ma ci sono appunto i corsi di base di chimica che servono proprio anche a uniformare all'inizio per poi dare un qualcosa in più che serve appunto nella formazione accademica. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Un concerto per prendere commiato da una città che lo ha visto per alcuni anni protagonista della vita musicale. Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale, suona stasera al Teatro Verdi di Pordenone, del quale è stato a lungo consulente musicale, portando sul palcoscenico artisti di livello assoluto. Un esempio per tutti la collaborazione con l'orchestra giovanile Mahler. Un concerto gratuito nel quale Baglini eseguirà prima una selezione di musiche di Chopin, dalle mazurche alle ballate, e poi i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, che è il brano che state ascoltando. Il recital di Maurizio Baglini comincia alle 20:30. Le memorie degli incendi è il titolo del film che verrà proiettato alle 19:30 in piazza della Transalpina a Gorizia. La proiezione illuminerà la facciata del futuro museo EPIC, piattaforma europea per l'interpretazione del XX secolo, Go 2025. Il film racconta le memorie dei residenti di Slovenia, Italia e Croazia durante l'occupazione nazista che nella regione transfrontaliera del litorale adriatico seguì al già difficile periodo del fascismo. Al fine di vendicarsi della popolazione civile che presumevano appoggiasse la resistenza, le forze di occupazione emanarono una misura sistematica che portò alla distruzione di oltre 250 villaggi. Seguirono massacri, saccheggi e deportazioni. Il film è stato realizzato nel 2017 come parte del progetto di ricerca internazionale finanziato nell'ambito del programma Europa per i cittadini. Ripartono le attività dell'ottava edizione di Festil, Festival Estivo del Litorale. Per Extra Festil lo scrittore e studioso Angelo Floramo, con il trio musicale Fior delle Bolge, porta sul palcoscenico A piedi nudi sul bordo del mondo suoni e voci lungo la frontiera. A Gradisca di Sonzo, Sala Bergamas, alle 21. Nell'ambito della rassegna Iran, alla ricerca di un'improbabile identità, il circolo cinematografico Charlie Chaplin alle 20:30 alla Casa del Popolo di Sotto Longera propone Gli orsi non esistono di Jafar Panahi. 32esima edizione dell'Alpe Adria Puppet Festival, che riparte all'insegna del play nel Circolo Arcigong di Gorizia, masterclass di Claudio Montagna sul teatro da tavolo, che porterà alla realizzazione di 3 pièce che saranno presentate al pubblico mercoledì 4 ottobre alle 17. Il programma completo del festival prevede dal 3 al 7 ottobre laboratori, conferenze e spettacoli da tutta Europa. Dalle 17 alla 18 al CNULP di Trieste si parla di podcast. In collaborazione con l'Assipod, un gruppo di professionisti organizza podcasting Friuli Venezia Giulia. Raccontiamoci, un'occasione per fare rete raccontando le personali esperienze di autori del territorio. Al via la campagna abbonamenti del Teatro Verdi di Gorizia. Il primo step è dedicato agli abbonati della passata edizione, che sino a sabato 14 ottobre potranno confermare quanto avevano già prenotato lo scorso anno o cambiare. Per la prima volta sarà possibile confermare l'abbonamento a patto di non richiedere modifiche di nessun tipo, anche via mail, scrivendo a info.teatroverdigorizia@gmail.com. L'abbonamento potrà essere poi ritirato entro martedì 31 ottobre in biglietteria. Adesso la pagina dello sport. In primo piano c'è il calcio, con l'Udinese chiamata alla prova in casa dei campioni d'Italia. I bianconeri affronteranno il Napoli allo stadio Maradona alle 20:45 dopo la bruciante sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Intanto questo pomeriggio sarà presentato il progetto per l'efficientamento energetico dello stadio Friuli, che sarà interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici e diventerà così energeticamente sostenibile. un progetto che nasce dalla partnership tra la società bianconera e il nuovo sponsor Blue Energy, che darà il proprio nome alla casa dell'Udinese. Ma tornando all'incontro di stasera, che vedrà competere Napoli e Udinese, sentiamo il commento prepartita di Mister Sottil. Ma intanto giocare, lo ripeto, giocare subito fa bene e quindi aiuta a non pensare troppo a quello che è successo domenica e catapultarsi invece su quello che conta, che è il presente, che è Napoli. Ma quello che mi interessa, sicuramente lo sappiamo, che Napoli è una squadra forte, non è che lo sappiamo tutti, è una squadra assolutamente competitiva in tutti i reparti e anche nelle alternative, quindi quello che mi interessa è invece mettere come sempre un 11 iniziale che sia competitivo, che possa e debba andare a impensierire il Napoli quando abbiamo la palla e vada a fare una grande fase difendente quando la palla c'è al Napoli, quindi sicuramente ho delle valutazioni ancora da fare. Effettuati i sorteggi della fase a gironi dell'Eurocup maschile e femminile, nel torneo maschile sono rimaste 16 squadre in lizza. La Pallanuoto Trieste è stata inserita nel gruppo D e affronterà Primorac Kotor del Montenegro, Ortigia Siracusa e Panionios, squadra greca, tra il 7 ottobre e il 9 dicembre. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale. Con i sorteggi non siamo particolarmente fortunati, il commento dell'allenatore Daniele Bettini: sarà battaglia ogni partita, il programma degli incontri deve ancora essere definito. 8 le compagine in ballo per quanto riguarda invece la fase a gironi dell'Eurocup femminile. La Pallanuoto Trieste è finita nel gruppo B con Vasutas, squadra dell'Ungheria, Spandau tedesca e Grand Nancy francese. Le prime due si qualificheranno direttamente alla Final Four. Abbiamo le carte in regola per giocarcela, ha detto ieri l'allenatore Paolo Zizza. Nell'ambito degli eventi in vista della 52esima edizione del trofeo Bernetti, nella sede sociale della società nautica Pietas Iulia a Sistiana, alle 18 Laura Bassi e la sua Antartide, esperienza professionale e di vita dai racconti di Franco Setmak, comandante della nave oceanografica italiana, e di Giulia Matilde Ferrante, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS. E alle 7:49 minuti siamo alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Lo sport comunale a Elisa Lodi, titola il piccolo di Trieste. Il sindaco di Piazza toglie la delega al fedelissimo Giorgio Rossi, assessore alla cultura e al turismo, e la affida all'assessore ai lavori pubblici. La solitudine e il no agli aiuti dell'uomo trovato impiccato, l'articolo di spalla di commento sull'uomo, appunto, che si è suicidato, sembra si sia suicidato dato pochi giorni fa lungo la grande viabilità triestina. Poi si parla della Hydrogen Valley, al via i primi progetti tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Venendo alla cronaca cittadina, il nuovo Museo del Mare Junior in Porto Vecchio, inaugurazione martedì 3 ottobre, denominato Ala Nord, si estende per 2200 metri quadrati, al terzo piano del magazzino 26, sarà operativo fino all'esposizione del Museo Senior nel 2026. E sempre in Porto Vecchio entra nel vivo l'organizzazione del forum internazionale Big Science Business Forum, prima visita per i delegati del Comitato Europeo in vista del 2024. Ma il tempo, altri ristori, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine per gli ulteriori 100 milioni stanziati in assestamento di bilancio dalla regione di spalla Palmanova. Dopo la rissa di sabato scorso tra decine di ragazzini al Luna Park, oggi vertice sulla sicurezza, i giostrai dicono che i casi sono in aumento. La discarica di Carpeneto preoccupa pure Lestizza, domani il confronto, un altro titolo, e a Lignano al via i lavori per proteggere la spiaggia, arrivano i sacconi. Nella fotonotizia, la presentazione di 6 copie della Bibbia di Gutenberg realizzate dallo Scriptorium Foro Iuliense. In apertura di cronaca cittadina, la vicenda della mancata chiusura della struttura per migranti minori a Udine, in taglio basso il ritorno del basket, le ambizioni di Udine Ordine Cividale e poi il nuovo nome dello stadio Friuli sarà anche Blue Energy Stadium. Accoglienza al limite parla Domenico Lione, prossimo prefetto di Udine, sotto il blitz nella struttura per migranti di Udine che, dice il sindaco, deve chiudere. Fotonotizia, l'udinese sposa Blue Energy e di spalla due soluzioni per il ponte di Dignano e la denuncia di un udinese diversamente abile, ecografia in ritardo di 6 mesi, poi la svolta. Il Piccolo, edizione Isontina, apre con una notizia di economia su Monfalcone. Il polo nautico si allarga, la Coseveg cede una vasta area in via Timavo alla Vittoria Yachts che fa scafi di lusso. Mentre in taglio alto una fotonotizia sui lavori a Ronchi dei Legionari del nuovo hub MSG. Il capocronaca di Gorizia, le nuove strategie di Fondazione Carigò, cerca fondi europei e investe 2 milioni, vince il bando Interreg e incassa 200.000 euro per il 2025. Quindi gli alpini di Gorizia festeggiano il centenario della loro sezione ANA con esercitazioni, mostre e sfilate, gli eventi che si chiuderanno a fine ottobre col corteo e il conferimento della cittadinanza onoraria. Infine, tornando a Monfalcone, nuova linea per lo scuolabus correttivo antilevataccia per i 300 fruitori del pulmino, investiti altri 35.000 euro all'anno, ma l'opposizione vuole il pedibus. Sciabolate a Prata, denunciati 22 sikh in prima pagina del Gazzettino di Pordenone insieme all'emergenza migranti lanciata dal prefetto Lione che lascia il Friuli occidentale per Udine. In un box botte alla madre di 89 anni, patteggia un anno, un uomo di San Vito al Tagliamento, a centro pagina 2 anni di attesa per una visita oculistica a Sacile, nuovo record naturalmente negativo, di spalla calcio, il comune in soccorso per il futuro del Pordenone in caso di un giudizio negativo del tribunale sul concordato preventivo. Sul Messaggero Veneto a 100 pagina le perquisizioni nella comunità SIC, di spalla Sacile apertura di risparmio casa all'ex mercatone, poi un anziano grave urta un cordolo e cade dal triciclo in via Baracca e poi l'uccellatore condannato, messo alla prova, gli ambientalisti insorgono, i volatili sequestrati erano 28, sono stati affidati alla LAV oltre un anno dopo l'avvio del procedimento, ne erano rimasti vivi solo 8. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio, a seguire il consueto appuntamento con Vueof e Velindi sulla peste suina alle 11.20 con le mani, con i piedi, con il cuore. Alla parte tecnica Paolo Castano e Walter Vidoni, sì, in redazione Laura Sarasini, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.